Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, monitoriamo in tempo reale le ultime notizie sul nuovo coronavirus. In linea con noi la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore della microbiologia dell'ospedale Sacco Università di Milano, Centro Nazionale per le Bioemergenze. Professoressa Gismondo, buongiorno. Buongiorno a voi. Professoressa Gismondo, ad oggi sappiamo che è meno aggressivo della SARS, ma più veloce, con la particolarità che si trasmette anche durante l'incubazione, che può durare da 1 a 14 giorni, quindi in assenza di sintomi. Così viene descritto su un articolo pubblicato su Lancet. Che cosa significa? Che cosa aggiunge questa informazione? L'informazione in termini pratici aggiunge da un lato un minor timore sull'aggressività del virus e dall'altro lato una maggiore attenzione nei 14 giorni precedenti l'esordio dell'infezione. Quindi le persone che arrivano da Wuhan devono essere tenute sotto un monitoraggio sino a 14 giorni dalla loro partenza da Wuhan. Perché si dice, e Lancet ha pubblicato questo nuovo lavoro, ci potrebbe essere un contagio anche in quel periodo. Ma il Lancet stesso invita alla cautela, perché dice sono ancora pochi i casi analizzati. Quindi prendiamo e recepiamo quello che il Lancet ci dice. Non allarmiamoci, ma stiamo attenti. Al momento, professoressa Gismondo, i casi sospetti nel nostro paese sono risultati negativi. Sino ad oggi in Europa 3 casi certi, i casi francesi. Professoressa Gismondo. Sì, è quali vero, previsioni? C'è stata qualche attenzione, qualcuna fondata, perché erano persone che arrivavano da Wuhan e con qualche sintomo che poi si è rivelato essere solamente influenzale, e molti anche infondati che sono stati già bloccati prima di arrivare in pronto soccorso. Quindi la situazione è sotto controllo. Devo dire che la popolazione sta reagendo molto bene, perché non c'è questo panico infondato, che si stanno tenendo giustamente di conto quello che viene pubblicato ufficialmente sul Ministero della Salute, sul sito del Ministero della Salute, e anche io parlo da Milano, anche dalla Regione Lombardia, che in continuazione aggiorna i dati e dà con chiarezza luce sulla situazione. A oggi in Italia nessun caso positivo, in Francia 3 casi, ma i 2 di Parigi e quello di Bordeaux. È importante sottolineare che origini avevano, erano persone arrivate da Wuhan e un familiare di queste persone, quindi ancora virus con sede, se così è possibile dire, Wuhan. Potenziato da oggi il numero verde 1500-1500 del Ministero della Salute, che fornisce gratuitamente ai cittadini informazioni in italiano, inglese e cinese sul coronavirus. Il numero tra l'altro è attivo 24 ore su 24. Ulteriori notizie le trovate su Epicentro, il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell'Istituto Superiore di Sanità. Per oggi è tutto, tra poco vi aspetto in diretta Facebook, la programmazione di Radio 24 continua, ma oggi noi parliamo di dieta vegana. Si può diventare leggermente vegani? A tra poco vi aspetto, non mancate. Un saluto da Nicoletta.